potevamo che omaggiare Oneida. E non potevamo che farlo con il disco che del 2004, che si chiamava Secret War. Questa era 50T, sempre dallo stesso disco, nel complotto Trip Virus abbiamo tratto Cesar Colon con le dovute sofisticazioni. E quindi sì, abbiamo voluto sguazzare, portare all'eccesso ogni diatriba, metterla in burla, spingere sull'acceleratore fino alla fine, anche oltre, creare nonsenso. Five O'Clock, Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Vi lasciamo in compagnia di questa band romana che ha fatto nel 2017 questo Garden of God. Questa era la loro verbena, quarta traccia, quasi quasi mezza da cavo, dai. una delle cinque nazioni irochesi. Otei. Che non sappiamo Otei sia in Maori e sia in Lakota. Sì, in Dakota hanno entrambi un significato, quindi non sappiamo da dove abbiano scelto il loro nome. Due tribù ancestrali, comunque. E spetta anche a loro un piccolo spazietto, un lavoro del 2019 se non andiamo errati, quello in coppia, in split fra T.I. Seagal e White French. T.I. Seagal ovviamente non ci si va appresso, dato che c'ha una produzione assolutamente vulcanica. Numericamente non è possibile seguire tutte le produzioni che fa, parecchie anche di buon alto livello. She's good. No, she's gold, scusate. T.I. Seagal, White Fence, dal disco Joy. No, del 2018. She is gold. She is gold. She is gold. She is a chocolate box. Top shelf. Thank you. promise I should walk with love one day. Gotta talk about love, you say you love, why can't you show love? Every day by day people talk about love. Bravo! Per Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale abbiamo ascoltato abbiamo ascoltato Ben Chasney, cioè Six Organ of Amitance. Haunted and Now, dal disco del 2020, Companion Rasis. E questo è Olumizzi. Olumizzi vuol dire che stiamo andando via, come da un po' di tempo. Nuove generazioni. Dall'Africa. Cholo kaina gano fuma biko gwane ndilo si honyo bona chazanuzo ha chineke ngewa kaina yola vide by day nezifu mo wana chitinya yini herwe kwe kwana obole lapwa yina vrobe kaiga baguga oboni yela nyako bonye genge nyita biko lisa kwa ngewa kaino nako basobo naina yogi ngewa bonye kela ngewa bonye ne yela nyaka Bano money kilo day, hati wole day, one pay me lo lumi day, leg be pyramide. Melo laye nye, aye yi kere go. Money kilo day, vanity upon vanity, no. Winning love gone, winning any love gone. Aye yi yo love gone, melo leg be e gone. Money yo kere gone. Why you gone de, why you maya, bebe o te tongue gone. And you melo. Out of Fable in Nigeria, we trust in Europe to pull for the tip. Just to make things work up fine for us to live fine. Just to make things look good for us to live in a good condition. Good environment, good facility, electricity. Let's make one mind and live together. Peace of mind, let's live with a peace of mind. With unity, take my fall. Africa to deal with, Africa to deal with. Olu Messi Mizu, bravo Neil. Got it. A circle spinning faster and getting larger all the time. A whirlpool spell disaster for all the people who don't rhyme. Him who don't fit through the needle's eye. Him who just don't understand. sense of time. You may go and stand alone now and leave the hate and fear behind. Allora, ci siamo, quindi chiudiamo le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa per questa notte. All the millions spent for killing. Seems the whole world must be. Si riprenderà giovedì mattina. All the children who go hungry. Dopo che la compagna automatica suonata vi avrà tenuto compagnia con le sue repliche. Dicevamo, si riprenderà domani mattina alle 8 con la rassegna. La rassegna stampa, le prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina, il giornale radio che non va in onda da illo tempo. Il pomeriggio, tutta scena cinema alle 14, Happy a Blues, oltre Black Music alle 16, la schiena in sole alle 17, il mezz'est alle 18. La tabula rasa in diretta, registrata, differita, non sappiamo. La trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa e alle 23 a chiudere Apostasia, i cuginetti del punk e della, dei suoni indipendenti di Radio Onda Rossa. Il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale, che l'angoscia di questo, di questa epidemia, di questo virus, insomma, rende ancora più ostili e preoccupanti le condizioni di chi è costretto a quella promiscuità che non è piacevole né in condizioni normali e tantomeno in condizioni di, appunto, angoscia per il progredire della epidemia. Ci auguriamo che tutte e tutti costoro possano uscire subito dalle galere. Vi incitiamo ancora una volta a aderire alla campagna di sottoscrizione di Radio Abbonamento. Ne abbiamo assoluta necessità, specie in un anno come questo in cui sarà molto difficile fare iniziative per accumulare soldi. Diciamo già difficile, praticamente quest'anno è impossibile, quindi abbiate pazienza, cercate di mettere così una mano al portafoglio per far sopravvivere uno strumento di comunicazione come Radio Onda Rossa, tanto importante in questo frangente storico. Nel frattempo abbiamo brutalizzato Jill Scott Tiron, him who don't fit through the needle's eye, you may someday go insane, the needle eye, insane, insane. Ve la faremo sentire un altro giorno. Noi nel frattempo noi ce ne andiamo pian pianino. Mercoledì prossimo, boh, non sappiamo nemmeno se trasmettiamo, no? Chissà, veramente faticoso assemblare il lavoro. Dai, bella. Sister, the best dreams to dream, sound for free. means